ringrazio prima di tutto per l'invito a parlare su un tema che è vero che è specialistico, ma è anche un tema che è un po' la base di tutte le riflessioni, di tutte le discussioni sul significato della storia, perché da che cosa nasce l'esigenza di periodizzare? Beh, nasce dall'osservazione, dalla considerazione del fatto che gli uomini, le società, le culture, gli oggetti di riflessione dello studio storico in definitiva cambiano, perché sennò altrimenti evidentemente non ci sarebbe storia, cambiano nel tempo, però cambiano di solito in maniera piuttosto lenta. E questo dà, a fianco dell'impressione del mutamento, anche l'impressione della continuità. Il problema di riflettere su questi due corni del dilemma, mutamento, continuità, è in fondo il problema che si pone qualsiasi discorso sulla periodizzazione, e cioè di rendere comprensibile il mutamento storico determinando appunto la successione di momenti, di epoche in una stessa civiltà oppure in distinte civiltà dell'umanità intera. Insomma, si può dire in generale che periodizzare la storia tenta di raggiungere l'obiettivo di far pensare la storia tenendo conto di entrambi i principi. Principi a prima vista incompatibili, quello per l'appunto del mutamento e quello della permanenza, o se preferite, della continuità e della discontinuità. Una visione abbastanza ingenua della periodizzazione è quella, ingenua lo diciamo adesso però, è quella che è stato un po' il risultato di tre secoli, dal 400 al 700, di riflessione su questi temi, e che poi quelli ancora della mia generazione sono stati abituati a ritrovare fissati nei manuali di storia, e cioè che i passaggi, i mutamenti epocali siano segnati da avvenimenti databili con precisione e che possiamo ritrovare in poi in quello che nella manualistica fino a qualche anno fa era poi definito come il grande schema della tripartizione, cioè età antica, medievale e moderna, che poi ritroviamo ancora per certi versi poi anche nella stessa organizzazione degli studi storici dal punto di vista accademico. Così appunto nello schema della tripartizione noi però cominciamo a trovare anche qualche differenza, perché per esempio il passaggio dall'antichità al Medioevo lo possiamo ritrovare segnato dal trasferimento della capitale dell'impero da Roma a Costantinopoli 330, oppure dal sacco di Roma 410, oppure dalla deposizione di Romolo Augustolo 476. Allo stesso modo il passaggio dall'età medievale a quella moderna lo troviamo contrassegnato, datato, evidenziato dalla conquista turca di Costantinopoli 1453, dalla scoperta dell'America 1492 o dalla pubblicazione delle tesi di Lutero 1517. Però vi ripeto, è una visione semplicistica e ingenua che difficilmente regge di fronte alle obiezioni che ha sollevato. Prima di tutto, con molta evidenza, sono periodizzazioni limitate, soprattutto dal punto di vista geografico e spaziale, perché tutte le date che abbiamo evidenziato sono riferite di fatto, compresa la conquista turca di Costantinopoli in buona parte alla storia europea, e quindi sono tipi di periodizzazioni che hanno un chiaro connotato eurocentrico. E poi, anche ammettendo l'esistenza di confini tra un periodo e l'altro, dobbiamo però anche ammettere che ce ne sono altri all'interno di ogni periodo e che perciò questi possono essere a loro volta infinitamente moltiplicati. Il cambio di epoca ha bisogno infatti di tempo. Tracciare una linea netta non è possibile, nulla comincia di colpo o finisce di colpo. Il caso forse più clamoroso è quello relativo proprio alla rivoluzione industriale. Il termine sostantivo, il termine rivoluzione, indica di per sé un mutamento rapido ed improvviso, mentre invece sappiamo benissimo che proprio parlando di rivoluzione industriale parliamo, e magari ci torneremo dopo, di un passaggio che, se prendiamo avvio dalla proto-industrializzazione, necessita di un cambiamento che si distende per l'arco di circa un secolo perlomeno, e quindi di tutt'altro che di rivoluzione si tratta. Quindi, per certi versi, dovremmo cominciare a ragionare sostituendo all'idea di periodizzazione quella di transizione, e cioè ritroviamo i caratteri di un'epoca già nell'epoca precedente e così pure li ritroviamo anche in quella successiva. E qui altro fatto da tenere in considerazione, e su questo pure torneremo parlando della periodizzazione dell'età contemporanea, è il fatto che dobbiamo tenere conto in queste analisi della periodizzazione, o se preferite appunto della transizione, non del cambiamento di un solo carattere, ma del cambiamento di molti caratteri, quelli politici, quelli di carattere sociale, quelli di carattere religioso, quelli di carattere militare, economico, scientifico, culturale, eccetera, eccetera, eccetera. Ciascuno dei quali può dimostrare una propria propensione al cambiamento, alla transizione, con tempi diversi da quelli degli altri tipi di cambiamento e di carattere. Insomma, dobbiamo ragionare sempre di più, se vogliamo affrontare il problema della periodizzazione, manteniamo la definizione originaria, in termini di evoluzione multilineare, sia dal punto di vista spaziale e geografico, sia dal punto di vista tematico. Il che, evidentemente, ci porta, invece che, ancora una volta, a un ordine lineare di successione, ad un ventaglio, ognuno con la sua collocazione nel tempo, la sua più o meno lunga durata, la propria periodizzazione interna. E quindi diventa, evidentemente, molto difficile immaginare una unità del mondo cui si possano applicare ovunque categorie analoghe, tali da esprimere in maniera sintetica gli aspetti più diversi, quelli religiosi, quelli culturali, quelli politici, quelli economici. Tanto più per epoche nelle quali, e stiamo parlando di periodi relativamente recenti, i rapporti tra le diverse civiltà erano scarsi o nulli. Ciò che si può tentare da questo punto di vista, se vogliamo ragionare su una scala globale, è solo un esame fondato sulla comparazione e su una periodizzazione di storie settoriali, come ad esempio è avvenuto con un certo successo per la storia della demografia, per la storia della popolazione. Gli storici della demografia distinguono l'evoluzione della storia della popolazione in tre distinte fasi, su cui adesso non mi soffermo, che con tempi diversi si sono poi ripetuti o si ripeteranno, almeno secondo le loro stime, a livello globale nelle varie regioni del mondo. la transizione è cominciata, quella che loro chiamano la transizione demografica, è cominciata in Europa occidentale alla metà del secolo XVIII con il declino della mortalità, il periodo del passaggio all'aumento della natalità si è protratto per oltre un secolo, per poi declinare a cominciare dalla Francia rivoluzionaria, mentre invece su scala mondiale questo tipo di transizione non è ancora finito, in alcune regioni del mondo deve ancora cominciare, ma si presuppone appunto che il passaggio da una fase all'altra venga seppure in tempi diversi nelle varie aree del globo. Ma comunque, a parte questo rapido esempio, in definitiva noi assistiamo alla pluralità di tempi storici e a possibilità di periodizzazioni non sempre coincidenti, come peraltro era il senso dell'obiezione di Herder a Kant di fronte al tentativo appunto kantiano di utilizzare la categoria di tempo come prerequisito di ogni riflessione di carattere filosofico. Herder, in polemica con Kant, scriveva: non ci sono nel mondo due cose che abbiano la stessa misura temporale, dunque con un'espressione audace ma esatta possiamo dire che nell'universo coesistono nello stesso momento innumerevoli tempi. E in effetti, da questo punto di vista, mi pare che l'osservazione di Herder sia convincente. E proprio su questi temi, negli ultimi anni abbiamo assistito a delle riflessioni anche molto brillanti, alcuni esercizi di carattere storiografico, come per esempio il libro di Bartolomé Benassar intitolato 1492, dove Benassar prende come oggetto della sua ricerca proprio quello che, come abbiamo visto, è stata considerata per un lungo periodo la data periodizzante per eccellenza del passaggio dall'età medievale all'età moderna. E Benassar mostra invece che per gli uomini dell'epoca del 1492, appunto, questa data non suscitò particolare sconcerto, o se la suscitò, evidentemente la suscitò per motivi diversi da quello della scoperta, tra virgolette, dell'America, perché gli italiani erano evidentemente molto più preoccupati delle ripercussioni della morte di Lorenzo il Magnifico sull'equilibrio interno e sui rapporti tra i vari stati della penisola, e gli spagnoli della conseguenza della unificazione dei regni d'Aragona e di Castiglia, di quello che implicava evidentemente anche questo fatto. In ogni caso, anche lavori di storici meno recenti, se volete, hanno più o meno consapevolmente agito sulla, ancora prima dell'azione della diffusione delle tesi delle Annales e delle tesi brodeliane sul mutamento profondo e sul lungo periodo, hanno agito appunto in un'ottica di brevissimo, breve e lungo periodo. Se prendiamo uno dei temi, anzi sicuramente il tema più dibattuto da parte degli storici, tuttora per certi versi, quello delle origini della Prima Guerra Mondiale, noi vediamo benissimo come gli storici si siano sempre esercitati o in un'ottica di brevissimo periodo, anzi forse è il tema sul quale maggiormente si sono esercitati all'interno dei numerosissimi lavori appunto sulle origini della Prima Guerra Mondiale, si sono esercitati sullo sviscerare in maniera quasi prustiana, potremmo dire, ciò che è avvenuto tra il 28 giugno del 1914 e il 2-3 agosto dello stesso anno, cioè sui 35 giorni che hanno portato appunto allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. E però se analizziamo due classici sull'argomento, due classici che peraltro non parlano esplicitamente delle origini della Prima Guerra Mondiale, anche se il tema centrale poi alla fine è quello, cioè i due nei lavori, quello di Lien sull'imperialismo, fase estrema del capitalismo, 1916, quello di Schumpeter sulla sociologia dell'imperialismo, 1919. Il tema è quello dell'imperialismo, ma evidentemente è in maniera implicita anche quello delle origini della Prima Guerra Mondiale, e vediamo che, tra l'altro, a ridosso degli eventi venga lo stesso tema, imperialismo, Prima Guerra Mondiale, venga studiato con due periodizzazioni estremamente differenti e che portano evidentemente a conclusioni non coincidenti. Lenin parte nella sua analisi dal 1873, dalla grande crisi di sovrapproduzione, dal processo di concentrazione monopolistica, dal ruolo sempre maggiore della finanza in questo processo, dal coinvolgimento degli stati nella ricerca di nuovi mercati, nell'analisi del fenomeno imperialistico, e vede appunto la Prima Guerra Mondiale come uno sbocco quasi naturale di questo processo che lui analizza in un'ottica che potremmo chiamare di breve medio periodo, 1873-1914. Viceversa, Schumpeter parte nell'analisi dello stesso fenomeno, imperialismo, in un'ottica di lunghissimo periodo, risale addirittura agli antichi imperi, all'impero assiro-babilonese, all'impero degli Ittiti, e conduce un'analisi di carattere sociologico-psicologico, potremmo definirlo. Per Schumpeter l'imperialismo è la guerra senza oggetto, è la guerra che non conosce limiti, che non conosce rapporto tra fini e mezzi, è un fenomeno per certi versi ancestrale e atavico, che si può ritrovare in tutta la storia dell'uomo, è qualcosa quindi di irrazionale e in quanto tale è assolutamente slegato, qui è il rapporto polemico con l'opera di Lenin, è assolutamente slegato dal fenomeno capitalistico, perché il capitalismo è invece il fenomeno razionale per eccellenza, calcolo del rapporto mezzi fini. E quindi vedete che sullo stesso tema abbiamo due esercizi di periodizzazione estremamente diversi tra di loro, e lo stesso esercizio lo potremmo fare su un'infinità di altri argomenti a partire dalla stessa origine della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo visto un caso dove periodizzazioni molto diverse portano a conclusioni molto differenti. E però il gioco della periodizzazione è, come abbiamo visto, così complesso che noi assistiamo anche a fenomeni molto differenti. Cioè ci possiamo trovare di fronte a periodizzazioni apparentemente molto simili, ma che portano invece a conclusioni con impostazioni molto differenti tra di loro. Prendiamo come esempio quella che è stata probabilmente fino ad oggi la periodizzazione più fortunata del XX secolo, cioè quella contenuta nel libro di Eric Hobsbawm, Il secolo breve, anche se, come sapete, questo è soltanto il sottotitolo del titolo originale, che invece suona come l'età degli estremi, intendendo appunto il XX secolo come l'età delle due guerre mondiali, del genocidio, dell'olocausto, della bomba atomica, eccetera. Però il sottotitolo, che è diventato titolo nell'edizione italiana, ha avuto molto più fortuna del titolo, Il secolo breve, perché Hobsbawm periodizza il XX secolo, 1914, Prima Guerra Mondiale, 1989-91, il crollo del comunismo e del sistema sovietico. È, almeno nella data di avvio della riflessione, una periodizzazione molto simile a quella utilizzata da Ernest Nolte nel suo libro sul nazionalsocialismo e bolscevismo, la guerra civile europea, in cui la periodizzazione utilizzata è 1917-1945. In realtà le conclusioni sono differenti se non opposte. Nel libro di Nolte dello shock della Prima Guerra Mondiale praticamente non si tratta, perché evidentemente l'intento polemico nella data a quo, ma anche nella riflessione di Nolte, è il 1917, la rivoluzione bolscevica, la spirale di violenza che con essa si è innescata fino ad arrivare alla conclusione per certi versi scandalosa che ha suscitato poi il grande dibattito tra gli storici tedeschi dopo l'unificazione, che il Gulag ha preceduto il Lager e che non si può spiegare il nazismo senza una riflessione sul comunismo. E quindi, però poi diventano speculari due libri, riflessione sul XX secolo, ma in entrambi al centro la riflessione appunto su quello che è stato il comunismo, giungendo evidentemente a conclusione del tutto opposto con uno storico marxista non pentito come Eric Hobsbawm e un conservatore per certi versi non troppo illuminato come Ernst Nolte. Viceversa, periodizzazioni molto diverse tra di loro sono compatibili. Se confrontiamo sempre la periodizzazione di Hobsbawm sul XX secolo, sembra apparentemente una periodizzazione molto diversa da quella utilizzata da un sociologo ed economista come Giovanni Arrighi, che parla invece esplicitamente di un secolo lungo. Secolo lungo, XX secolo come secolo lungo, che inizierebbe quindi con le grandi rivoluzioni politiche, sociali e socio-economiche della fine del Settecento. In particolare l'attenzione di Arrighi è puntata proprio sul fenomeno della rivoluzione industriale e quindi arretrando di almeno un secolo l'inizio appunto del XX secolo o del Novecento. Periodizzazioni apparentemente molto diverse tra di loro, ma assolutamente compatibili se consideriamo il discorso che abbiamo fatto all'inizio, perché quella di Hobsbawm centra la propria attenzione sulla storia politica, 1914, Prima Guerra Mondiale, 1991, crollo del sistema comunista, mentre invece quella di Arrighi è una periodizzazione concentrata invece sui fenomeni di carattere socio economico. Come collocare dunque la storia contemporanea nell'ambito di questa attività della periodizzazione, che come abbiamo visto è un elemento essenziale ma anche problematico della storiografia, volto a mettere ordine ma anche volto a distinguere, cioè a scegliere, analizzare, attribuire senso e rilevanza ad alcuni fenomeni piuttosto che ad altri. Da questo punto di vista la storia contemporanea, in tutta evidenza, ha una caratteristica particolare, perché mentre per le altre epoche storiche noi siamo portati a stabilire, sia pure con tutte le cautele cui abbiamo accennato prima, un inizio e una fine, per la storia contemporanea l'esercizio è evidentemente attuato sul termine a quo, perché sul termine ad quem questo fugge sempre in avanti. E abbiamo una sensazione fortissima proprio in questi giorni, perché insomma la sensazione che il Novecento sia finito non nel 91, ma adesso, e per certi versi la stessa guerra fredda sia finita non nel 91, ma in questi mesi, è una sensazione che è forte, insomma, sulla quale la riflessione ancora non si è attuata, perché siamo nel pieno degli eventi, però insomma, una riflessione sul termine di questa lunga transizione dopo l'89, secondo me, di fronte agli eventi di questi mesi, si sta avviando, comunque dovrà essere avviata. Comunque, per tutti questi motivi, è evidentemente difficile definire un periodo di cui, se, come abbiamo visto, è problematico fissare l'inizio, è per certi versi impossibile individuare la fine, perché non si conosce l'esito dei suoi tratti individuati come qualificanti. È chiaro che quando l'incauto Fukuyama scrisse nel 92 di fine della storia e di sopravvivenza del solo sistema liberal democratico, non poteva sapere, però questo di per sé doveva indurlo ad essere maggiormente prudente, quanto sarebbe accaduto l'11 settembre 2001 e quanto sarebbe accaduto in questi mesi. Storia contemporanea è dunque un'espressione che non potrà mai essere eliminata, ma che vedrà contemporaneamente mutare continuamente gli eventi cui si riferisce. Anche perché, preso nel suo valore logico, l'aggettivo contemporaneo appartiene, come peraltro l'aggettivo uguale, alla famiglia di quello che i grammatici e i logici chiamano i predicati relativi o relazionali, che si riferiscono quindi, cioè, non ad uno, ma almeno a due soggetti. Qualcosa è contemporaneo soltanto rispetto a qualche altra cosa, e che significa che solo di due o più cose insieme si può dire che sono contemporanee. La storia contemporanea, quale la definiscono gli storici, non è comunque quella che occupa gli ultimi tre o quattro decenni, ma si estende ancora una volta su una durata assai più lunga. E ciò suggerisce la conclusione, a prima vista ben lontana da ogni senso comune, che dobbiamo considerarci contemporanei di eventi che risalgono per certi versi almeno a due secoli fa. A ciò si risponde osservando quello che ho detto all'inizio, cioè che il divenire storico è costituito da fatti, strutture, processi dotati di molteplici durate, di transizioni. Quindi con il trascorrere del tempo, appunto, l'inizio della contemporaneità viene rivista. Ne posso elencare diverse, sono 1789, 1815, 1848, 1870, 1914, 1945, 1973. Sono tutte date periodizzanti. Ancora una volta, però, e mi avvio verso la conclusione, sono date che prima di tutto, come potete osservare, sono tutte eurocentriche, cioè sono tutte con riferimento a eventi accaduti in Europa che hanno avuto evidentemente delle ripercussioni fuori dall'Europa, ma di eventi, appunto, che si stanno sviluppando in Europa. Se noi prendiamo il 1789, è chiaro che noi europei la consideriamo come una delle date, come dire, maggiormente indiziate per definire l'inizio della storia contemporanea, perché è un avvenimento non solo di carattere storico-politico, ma con ovvi influssi di carattere politico-sociale, economico, l'inizio dei processi di modernizzazione, cambiamenti nel costume, codice napoleonico, introduzione del divorzio, eccetera, eccetera, eccetera. Se però andiamo a vedere quello che accade in altre parti del globo, evidentemente l'India stava conoscendo fenomeni assolutamente diversi, per non parlare dell'Africa, di cui sappiamo poco e nulla, perché si stavano sviluppando ancora civiltà senza scrittura e l'europeo era ben lungi dal mettervi addirittura piedi. E poi molte di queste date riguardano avvenimenti di carattere storico-politico, oppure come nel 1815 essenzialmente hanno dei riflessi non solo sulla storia politica, bensì molto probabilmente solo sulla storia delle relazioni internazionali, che è evidentemente un fattore importante della riflessione storica, ma è un fattore che possiamo accostare a molti altri. Insomma, su che cosa possiamo riflettere su quello che intendiamo per contemporaneità in senso stretto? Ma possiamo forse giungere ad una conclusione, seppur è tutto provvisoria. Noi siamo abituati a considerare la contemporaneità in senso stretto come il Novecento, che però non coincide, come abbiamo detto e più volte ripetuto, esattamente con il 1901-2000, ma con un'epoca nel quale si disputeranno probabilmente ancora a lungo i caratteri e la periodizzazione. La specificità storica del Novecento, però, la possiamo forse cominciare a delineare, e cioè consiste nella direzione presa dai processi avviati fra il 1750 e il 1830, e quindi appunto con i processi nei quali sono andati a coincidere le grandi rivoluzioni di carattere politico, la rivoluzione francese e la rivoluzione americana, e le rivoluzioni di carattere socio-economico, la rivoluzione industriale. Il passaggio e l'evoluzione di quell'epoca, che è iniziata appunto in quel periodo e che giunge di fatto perlomeno alla crisi economica della metà degli anni 70, l'altra grande crisi che ha preceduto quella attuale e che indubbiamente ha portato ad un cambiamento epocale dell'organizzazione economica, almeno nell'Occidente capitalistico, con il passaggio da un'economia centrata sull'industria ad un'economia centrata invece sulla produzione di beni e servizi, con tutto quello che ciò comporta, cioè sostanzialmente il processo di dematerializzazione dell'economia, incentrata appunto non sulla produzione di beni materiali in senso stretto, ma molto spesso sulla produzione di beni immateriali. Questo passaggio è stato, se volete, individuato con una serie di immagini anche molto, molto evocative, molto significative, da uno storico americano che si chiama Charles Myer, che ha individuato il passaggio di questo periodo storico con il passaggio dalla linea alla rete. Il periodo appunto caratterizzato dalla rivoluzione industriale, dalla rivoluzione americana, dalla rivoluzione francese, ha poi avuto nel corso dell'Ottocento, secondo Mayer, un'esemplificazione nell'uso della linea, cioè nel bisogno degli stati di tracciare attraverso appunto il confine la propria distinzione e la propria separazione rispetto a le regioni con esse confinanti. E questo, tra l'altro, è un retaggio della dominazione europea attraverso il sistema del colonialismo e dell'imperialismo anche in aree differenti dall'Europa, come ad esempio l'Asia e l'Africa, tant'è vero che nel periodo della decolonizzazione questo retaggio è per l'appunto rimasto, tant'è vero che se voi osservate la carta dell'Africa voi trovate delle incomprensibili linee rette come confine, che nascono ovviamente dalla difficoltà di individuare dei confini geografici in aree come quelle desertiche, dove questi confini ovviamente sono estremamente labili, ma nascono altrettanto evidentemente da un'eredità dell'epoca appunto della dominazione europea. Secondo Mayer, con appunto gli anni 70 e quindi con l'avvio dei processi di globalizzazione, sui quali potremmo aprire tutta una serie di altre discussioni, ma non lo facciamo perché credo che in una delle prossime conferenze parlerete di storia globale, si è attuato appunto, la globalizzazione porta di per sé e la dematerializzazione del processo economico e la delocalizzazione, che è un'altra delle caratteristiche di questo fenomeno, porta evidentemente a ragionare non più in termini di linea netta di separazione tra un territorio e un altro, bensì alla costruzione di reti di punti, spesso appunto tra di loro collegati. Comunque, anche se utilizziamo questa periodizzazione di per sé, vi ripeto, molto suggestiva, come vedete, del passaggio del Novecento, nel senso che abbiamo inteso prima, dalla linea alla rete, siamo comunque costretti a considerare rilevanti questi sei processi, e qui torniamo al discorso iniziale appunto del considerare periodizzanti dei processi e delle transizioni, che sono essenzialmente l'industrializzazione, l'organizzazione capitalistica della produzione, la rivoluzione democratica, l'affermazione delle identità nazionalistiche, l'evoluzione del sistema internazionale, la costruzione di un sistema mondiale sotto l'egemonia occidentale. Oppure, se preferite l'analisi di un sociologo della politica come Gino Germani, caratteristiche della contemporaneità, e qui mi fermo, sarebbero là i processi di modernizzazione, intesi appunto come conoscenza scientifica, tecnologia e sviluppo di una struttura economica capace di assicurare in misura sempre crescente il dominio sulla natura e di massimizzare l'efficienza nella produzione di beni e di servizi, e dal punto di vista dei cambiamenti di carattere economico, i processi di secolarizzazione